edizione. Qualche notizia arrivata nella notte. Allora, innanzitutto iniziamo dall'Afghanistan, dove è di poco fa la notizia, appunto, che una base dell'esercito afghano nella provincia orientale di Kunar è stata attaccata con razzi, con un bilancio provvisorio di varie vittime, almeno 4, e molti feriti, segno che appunto la tensione nel paese non si allenta evidentemente. Allora, e poi ci sono le questioni economiche e finanziarie, che ci sono notizie che arrivano dal Giappone, dove la borsa di Tokyo guadagna lievemente lo 0,12%, però ci sono dati interessanti che arrivano dalle riserve valutarie giapponesi, che sono scese a dicembre dello 0,7%, soprattutto a causa della frenata dell'euro e dei prezzi dell'oro. Nel frattempo lo stesso euro cede terreno sui mercati valutari nipponici, a pesare naturalmente la notizia di ieri dell'agenzia di rating Fitch, che ha parlato di possibilità di nuovi tagli per i paesi di Eurolandia. Infine si era parlato nei giorni scorsi di possibilità di una partnership tra la Fiat e la Opel. Anche qua notizia arrivata questa notte e che arriva da General Motors, che dice che è impegnata a far tornare Opel redditizia, e non c'è nulla da annunciare appunto tra Fiat e Opel. Queste le parole che arrivano appunto da General Motors. Adesso, a proposito di auto, andiamoci a sentire che cosa succede su strade e autostrade. Ci ritroviamo subito dopo per un punto sulle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 38 secondi e noi andiamo adesso, come al solito, a quest'ora a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani italiani e quello che peschiamo e quello che abbiamo pescato dai quotidiani esteri, con tra l'altro un paio di analisi fresche fresche del New York Times e del Washington Post sulla vittoria di Romney. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata a Monti, perché? Perché il Presidente del Consiglio ha rilasciato un'intervista a Die Welt alla vigilia dell'incontro con la cancelliera Angela Merkel. Gli italiani fanno sacrifici, Europa e Merkel ci appoggino, dice Monti, la linea del governo appunto in questa intervista. Non c'è crisi dell'euro, dice ancora Monti, la crisi sostiene deriva dagli Stati Uniti. A corollario di questo pezzo c'è Giuseppe Sarcina che firma un servizio sulle nuove regole del patto europeo più tempo per ridurre il debito, mentre Franco Venturini firma un commento intitolato così: l'Europa non funziona. Editoriale di prima pagina oggi è di Antonio Polito, la pagliuzza e la trave il titolo, e si parla di liberalizzazioni. A centropagina invece le dimissioni del sottosegretario Malinconico. Il sottosegretario, dopo il caso delle vacanze gratis, dice: ho pensato all'interesse pubblico. Il titolo è: Malinconico cede e si dimette. La giunta della Camera dice sì all'arresto di Cosentino. Sergio Rizzo chiede un codice etico. Un codice etico fa bene al governo. Mentre Fiorenza Sarzanini firma aggiornamenti sulla vicenda delle inchieste che riguardano la cosiddetta cricca, gli immobili venduti a metà prezzo, quell'affare segreto con i beni della SIAE. A centropagina anche una bella foto presa dall'alto del corteo di ieri di Roma per la morte, per l'uccisione di un padre e una bambina, come sapete, di nazionalità di origine cinese. cinese e un pezzo di Dario Di Vico, corteo cinese, è anche un segnale di apertura. Questo è il quadro. Naturalmente c'è anche un titolo dedicato al San Raffaele, lo IOR si ritira, il San Raffaele va per 405 milioni al gruppo Rotelli. Il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata ai mercati, la tregua sulle banche spinge le borse, questo è il titolo principale. Si parla anche di Fitch che è pronta a tagliare il rating italiano, ma lo spread scende a quota 523. E sul tema delle agenzie di rating un commento di Donato Masciandaro che già dal titolo dice tutto: i giudizi delle agenzie non oracoli, solo opinioni. E poi Alessandro Platerotti firma un pezzo dedicato al capire il mercato, tassi e spread, ecco perché salgono prima dell'asta. A centropagina si parla dei provvedimenti del governo ed è molto interessante perché insomma non si trova da altre parti questo, almeno da quel che ci è dato di vedere oggi. È in arrivo il piano sblocca imprese. Nel pacchetto liberalizzazioni ci sono misure antiburocrazia per facilitare le attività imprenditoriali, meno controlli, tempi snelli sui pagamenti della pubblica amministrazione e spinta alla start-up. E troviamo anche un pezzo dedicato alla Siria, ad Daraa, dove ogni famiglia può contare un morto. Il pezzo è di Alberto Negri ed è un reportage dalla città epicentrica centro della rivolta siriana, Alberto Negri, che sentiremo più avanti alle 6.35 circa, più tardi, dopo Italia in controluce. Naturalmente anche titoli dedicati alla politica, con il sottosegretario malinconico che lascia, il sì all'arresto di Cosentino, con i voti decisivi per la Lega. Tra l'altro ricorda anche il Sole 24 Ore in prima pagina un appuntamento politico fondamentale, il referendum oggi, la Consulta, i giudici orientati per il no. La Repubblica, Monti, cosa chiedo alla Germania? Parla il premier alla vigilia del vertice con la Merkel, il mio governo non può fare di più, sulle borse spread a quota 523. In Italia rischio di reazioni antieuropee, dice ancora Monti, e Fitch parla di possibile taglio del rating. Prima pagina molto essenziale, con al centro una foto di Carlo Malinconico, appunto, che si dimette, una scelta autonoma, dice. E intanto si parla anche di Cosentino, il sì all'arresto con il voto della Lega. Il commento di Claudio Tito si intitola La zona grigia del potere. E poi si parla del dossier farmacie, svolta per le farmacie, saranno 7.000 in più, con la riforma 120 milioni di risparmi per i cittadini. Carmelo Lopapa invece ci segnala vicende che riguardano la casta, sconto senatori in trattoria, pranzo completo a 20 euro. E poi la polemica, perché come sapete, come forse saprete, sicuramente i milanesi lo sanno, da lunedì entra in azione questa cosiddetta area C, quella dentro, per entrare nella quale bisogna pagare la congestion charge. C'è un pezzo di Roberto Rò: se la Milano dei ricchi sfida il ticket ecologico. Questo per quanto riguarda la Repubblica. La Stampa, i protagonisti della giornata, interessante la scelta di impaginazione, un grande titolo dedicato al governo Monti che perde un pezzo, vacanze gratis, Malinconico lascia, Cosentino sia all'arresto coi voti del Carroccio, e sopra però i due volti dei due personaggi della giornata secondo la Stampa, Carlo Malinconico appunto, che si è dimesso, la rivincita dei politici, anche i tecnici piangono, il pezzo firmato da Mattia Feltri, e la foto di Nicola Cosentino, difeso solo dal PDL, il doppio volto della Lega, garantista a giorni alterni, a firma di Michele Brambilla. Che cosa troviamo ancora? Troviamo un Marcello Sorgi che firma un commento nel quale dice: ora ci vuole l'operazione trasparenza. E poi oggi il premier della Merkel: l'Europa deve venirci incontro. C'è un titolo anche dedicato al San Raffaele e una bella foto anche qua della fiaccolata di ieri del corteo per ricordare le vittime di Torpignattara, il padre e la figlia uccisi in una rapina. Divertente anche il fatto che ci sia un'intervista a Ringo Starr che dice: non ho nostalgia dei Beatles, esce il mio 17° album, è stato tutto favoloso, ma vado avanti. Il Messaggero: Monti, ora l'Europa aiuti l'Italia o vince il populismo, è l'apertura, quella che tecnicamente si chiama apertura, ed è sulla sinistra, guardando il giornale sulla sinistra. Con un commento del nostro Oscar Giannino dal titolo Messaggio a Berlino, e però il titolo forte è dedicato alla vicenda Malinconico. Malinconico lascia, le vacanze gratis una leggerezza, non un reato. Si parla anche di Cosentino, si parla ovviamente delle migliaia in corteo per Gioia Esu, come è naturale che fosse, non solo per la notizia ma anche perché è il quotidiano di Roma. E una bella storia che interessante, bella perché interessante: le terme di Fiuggi in mani straniere, arrivano gli inglesi per il rilancio. E questo lo trovate di taglio basso sul Messaggero. Forse abbiamo messo ho messo qualcosa dalle prime pagine dei quotidiani a proposito del delitto di Sara Scazzi. Comunque vi riassumiamo, lo trovate su quasi tutte le prime pagine, vi riassumiamo col titolo del Messaggero: via il processo per l'omicidio di Sara, Sabrina piange in aula, mi massacrano. Questo è quello che trovate sulle prime pagine, naturalmente, dei principali quotidiani italiani, come sapete. Poi per la rassegna stampa più approfondita c'è il nostro Alessandro Milan, più tardi alle 7:15, dopo il GR, dopo il GR Sport. Veniamo ai quotidiani stranieri, le cose che abbiamo trovato guardando un po' in giro. Innanzitutto, in una giornata come questa, quella nella quale, lo ricordiamo ancora, si sono svolte questa notte le primarie in New Hampshire e ha vinto Romney di larga misura con un 40% nelle primarie repubblicane. Ci sono naturalmente già i commenti a caldo da parte dei quotidiani americani, iniziando dal New York Times, che segnala innanzitutto come Mitt Romney ha ottenuto un risultato, l'accoppiata Iowa-New Hampshire, che non si vedeva dal 1976, e parliamo, se non erro, di Gerald Ford. Vinse poi quelle elezioni presidenziali in realtà Jimmy Carter, l'aeroplano, dice il New York Times, che trasporta Mitt Romney dovrà portarlo in un luogo dove la prova sarà più dura, e sarà un test cruciale, poi ne parleremo più avanti, ossia la South Carolina. Sarà là, un posto famoso, dice il New York Times, per riflettere le sottocorrenti oscure della politica americana, potremmo dire quella di quell'America profonda, che avrà l'opportunità di dimostrare che può superare i dubbi tra gli evangelisti e i Tea Party, che hanno una tensione ovviamente più ideologica e religiosa ai candidati. Dati e questi elementi evidentemente li può superare. Questa deve dare questa dimostrazione soprattutto in South Carolina. Questo è il punto, quindi identifica il New York Times come momento cruciale, naturalmente, la South Carolina. Il Washington Post la vede un po' meglio in prospettiva, nel senso che dice che in sostanza Romney è senza dubbio a questo punto il candidato più forte. Arriva nella Carolina del Sud con un peso molto forte, con un risultato molto forte, e sembra possa convincere effettivamente chi? Quelli che sono poi gli elettori principali, ossia quella maggioranza di votanti che cita i problemi economici come la principale motivazione nella loro decisione di voto, e poi quel terzo di elettorato che dice che l'abilità di battere il presidente Obama, parliamo dell'elettorato repubblicano naturalmente, non di tutto l'elettorato, che l'abilità di battere il presidente Obama nelle elezioni è la qualità che molti cercano in una nomina, e chiaramente Mitt Romney da questo punto di vista sembra evidentemente quello veramente in grado di battere Obama. Un altro paio di cose le prendiamo sempre dai quotidiani internazionali, in particolare nella fattispecie il Financial Times, che dedica l'apertura al fatto che molto probabilmente verrà bloccata da Bruxelles la fusione tra Deutsche Börse e il New York Stock Exchange, con tutti i dubbi espressi ieri dal commissario al mercato interno Almunia. E poi però dedica un intero pezzo al fatto che c'è un'email partita dal governatore della Banca Centrale Svizzera, ex governatore a questo punto, che si è dimesso come sapete l'altro ieri, Philipp Hildebrand, e si è dimesso perché, lo ricordiamo ancora una volta, perché mentre lui agiva sul mercato dei cambi sua moglie di fatto faceva trading valutario. E c'è un'email che non è stata usata ancora né visionata né utilizzata dal consiglio direttivo della Banca Centrale Svizzera né dai controllori che stanno conducendo l'indagine, ed è un'email a quanto pare importante, privata, nella quale appunto Hildebrand in sostanza darebbe il via libera a queste operazioni valutarie, quindi in sostanza questa mail aggraverebbe la posizione del governatore. Segnaliamo un'altra cosa interessante dal Wall Street Journal, così, e lo facciamo di volata, che dedica naturalmente l'apertura a Romney, almeno per quanto riguarda, come dire, l'edizione online, e si parla naturalmente di Grecia e del rischio che crescano i costi del mercato, sia del taglio per quanto riguarda i bond greci, ed è interessante come segnali il Wall Street Journal che, nonostante una parte del cosiddetto boom della Spagna dipenda proprio dal crollo del mercato immobiliare, nonostante questo e le difficoltà bancarie spagnole, nonostante questo le banche spagnole stanno costruendo palazzi, stanno finanziando la costruzione di palazzi. Questo il Wall Street Journal. Noi chiudiamo così questa parte dedicata alla rassegna stampa. Prima edizione. Le 6:36 minuti e 5 secondi, ossia il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è l'11 di gennaio. Oggi siamo a Sarno, una cittadina della Calabria dove l'Andrangheta regna sovrana. È finita sotto i riflettori per una caccia all'immigrato 2 anni fa. Sentiamo il reportage di Cristina Carpinelli. Due anni fa, era il 7 gennaio 2010, a Rosarno esplose una violenta rivolta degli immigrati, quasi tutti africani, che risposero al ferimento di 2 loro compagni. Il paese fu sconvolto dalla violenza che nel giro di qualche ora portò una sconosciuta cittadina calabrese alla ribalta nazionale. Queste erano le voci dei protagonisti. Non lo sappiamo cosa dobbiamo fare stasera! We are not dogs, we are human beings. That is why we want only. A distanza di 2 anni, a Rosarno gli immigrati sono tornati a raccogliere le arance calabresi. La situazione è davvero molto grave, ci racconta il direttore della Caritas, Vincenzo Alampi. Bisogna fare di più, bisogna dare dimostrazione che noi possiamo. Se c'è un terremoto, si montano le tende, sì o no? Qua è un terremoto, è un terremoto. I migranti a Rosarno sono circa 1000 oggi, ci racconta Don Vincenzo. 1000 lavorano un 200, capito? E quindi sono almeno 800 che non lavorano. Loro sono dislocati in vari posti, tra cui una un posto che sta diventando famigerato, la Pomona, dove era una vecchia industria per l'estrazione del succo d'arancia, abbandonata, loro l'hanno occupata e ci vivono veramente in un modo tremendo, terribile, non è una vita quella, non c'è acqua, non ci sono servizi igienici, non c'è luce elettrica. C'è ancora il caporalato, cioè c'è ancora questa figura che arriva a sfrutta? C'è sì, senz'altro, ma in quest'ultimo periodo, per esempio, non ho visto la 'ndrangheta che c'era 2, 3 anni fa, 4 anni fa, però ancora non è che ha una grossa paga, parliamo di 25-30 euro ancora, parliamo di un euro a cassa di arance, di mandarini, che poi raccolgono 26, 27, 28 casse di mandarini, quindi guadagnano 27, 28 euro, non è una paga. Non è una miseria, è una miseria. Però pensiamo pure a una situazione di una politica agraria che dalle nostre parti non c'è, che non la sostiene l'agricoltura. Perché? Perché se si pagano i mandarini e le arance, si pagano a 6, 7 centesimi, 5 centesimi, i proprietari non riescono a far raccogliere le arance, e le arance sono tutte sugli alberi. Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. This state has always been a very special place for our family. And I have made a home here. We filled it with great memories of our. Quello che sentite, naturalmente, l'abbiamo già fatto sentire nel giornale radio delle 6. Questo è Mitt Romney, che ha vinto questa notte New Hampshire le primarie repubblicane. Noi ci colleghiamo con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che si trova in New Hampshire, dove si è votato questa notte. Buongiorno Mario. Naturalmente una vittoria molto larga, intorno al 40%, ci si attendeva che fosse così? No, nelle ultimissime ore, negli ultimi giorni non ci si aspettava una vittoria così forte di Mitt Romney, che era stato sotto attacco dei suoi concorrenti, soprattutto per il suo passato di corporate trade, di banchiere, di uomo avido che aveva costruito, soprattutto sotto gli attacchi di Gingrich, gli diceva che aveva costruito la sua fortuna acquistando aziende, svuotandole del loro capitale, licenziando una gran quantità di persone. Ecco, questo messaggio in qualche modo è passato, un po' tutti l'hanno attaccato su questo, anche Santorum, eppure ha dimostrato la sua forza proprio risalendo la china e arrivando quasi al 40% del voto, siamo al 39,4%, con un distacco di quasi il 16% rispetto al secondo, il 23% è andato a Ron Paul, il 17% a John Hatzman, quindi una performance direi molto buona. A questo punto si prepara al South Carolina, dove vincerà, l'appoggio del governatore Nikki Haley, vincerà forse anche in Florida, e insomma sta facendo storia. Mitt Romney lo ha detto, come abbiamo sentito poco fa nella sua dichiarazione di apertura, quando ha parlato al pubblico, ai suoi fedelissimi, però se riuscirà a vincere anche la South Carolina e la Florida, beh, quattro stati insieme davvero non li aveva ancora vinti nessuno, quindi avrà di fatto la nomination in tasca con la Florida se non ci saranno incidenti di percorso. In South Carolina in particolare, Mario, c'è una questione che riguarda il rischio che ci sia un voto più ideologico e di fede, se così vogliamo, e questo potrebbe sottrargli voti in favore magari di un personaggio come Santorum. Sì, infatti Santorum è più forte in Carolina del Sud, ha il 20% delle preferenze nei sondaggi, ha superato Gingrich, anche Gingrich dovrebbe fare piuttosto bene, però sparirà quasi certamente Huntsman. Farà anche molto bene Ron Paul, che in questo momento si trova al terzo posto, quindi bisognerà vedere come riuscirà a comportarsi nella Carolina del Sud. Però questa divisione fra gli altri concorrenti sicuramente aiuta Mitt Romney. Se ci pensi, Santorum ha vinto l'Iowa, ma è sparito in New Hampshire, è salito Huntsman, che sparirà nella Carolina del Sud, Ron Paul ha fatto molto bene qui, ma non farà molto bene nella Carolina del Sud, quindi insomma c'è una situazione molto frammentata fra questi concorrenti di Mitt Romney, e dunque questo lo avvantaggia sicuramente. In sostanza, le elezioni, anche le primarie, si vincono al centro. vincono al centro, il candidato più stabile finora è quello che direi ha dato una prova di assoluto sempre controllo dei suoi nervi, non ha mai perso la calma, ha sempre, devo dire, questo sorriso un po' stampato in faccia che lascia alcuni un po' perplessi, però è riuscito a fare benissimo. Se abbiamo presente, se i nostri ascoltatori possono immaginare un grafico, si vede come nel corso di questa campagna elettorale, anche prima del voto dell'Iowa, la destra repubblicana, che non è contenta di Mitt Romney, non ci si identifica, non è un uomo di passione, non è coinvolgente dal punto di vista morale, bene, ha sempre cercato qualcun altro, è partita con Perry, abbiamo avuto Kane, di Godfather Pizza, sono caduti tutti uno dopo l'altro, alla fine in qualche modo anche Santorum qua in New Hampshire è caduto e lui è sempre rimasto molto stabile, si vince al centro, si vince con la stabilità, direi che è il candidato migliore che il Partito Repubblicano può avere per schierare contro Barack Obama, e difatti nel suo discorso dopo la vittoria ha attaccato subito Barack Obama, sul presidente, sul fatto che lui andrà avanti fino in fondo, e ha affrontato una serie di tematiche molto particolari, dal Medio Oriente al Pentagono, al riarmo degli Stati Uniti, sempre attaccando il presidente Obama. Ultima domanda, Mario, molto duro Romney con l'Europa, ha addirittura utilizzato il paragone dei leader europei proprio per attaccare Obama. Sì, è uno dei suoi motivi di fondo, è uno dei motivi di fondo di questa campagna elettorale, proprio contro Obama, attacca l'Europa per attaccare lo statalismo di Obama, dice Obama è come l'Europa, l'Europa ha il welfare state vecchio stile, non è un'unione di paesi che pensa al libero mercato, è uno stato assistenzialista, quello delle varie nazioni europee, e Barack Obama vuole trasformarci in una sorta di paese europeo. Ecco, questo naturalmente non è vero, perché poi gli Stati Uniti hanno le loro tradizioni, le loro radici, e Barack Obama è vero che ha aumentato di molto il ruolo dello Stato e comunque l'assistenzialismo, però sicuramente non potrebbe mai portarlo a livelli europei, anche perché in questo momento ha un Parlamento controllato dai repubblicani, la Camera controllata dai repubblicani e probabilmente a novembre anche il Senato, però è un motivo di fondo che Mitt Romney ha tirato fuori in un discorso a Bedford in risposta al discorso del Kansas che fece Barack Obama quando illustrò la sua linea politica, devo dire si spostò leggermente a sinistra del centro quando in quel discorso disse che anzi bisognava tutelare il cittadino medio americano, bisognava riportare un minimo di equilibrio contro questa sperequazione che abbiamo visto negli ultimi anni, e dunque avrebbe nella sua piattaforma elettorale portato avanti una serie di iniziative sicuramente di tipo sociale. Grazie. Prima edizione. Le 6, 47 minuti e 10 secondi. Buongiorno ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Allora, oggi leggiamo un tuo bellissimo reportage da Dara, epicentro della rivolta siriana, sul Sole 24 Ore. Ti chiediamo naturalmente, poi insomma, se vorrete leggerlo siete benvenuti sul quotidiano, perché appunto è molto bello. Ti chiediamo, per così dire, un piccolo riassunto radiofonico e poi anche un punto sulla situazione a Damasco, a Damasco naturalmente inteso come in Siria in generale, anche dopo il discorso di ieri di Assad. Ma dunque, io sono andato ieri a Daraa. Daraa è una città a 100 km a sud dal confine, a sud di Damasco, a 3 km appena dal confine con la Giordania. È stato dove è cominciata questa rivolta contro Assad nel marzo scorso. Qui ci fu un episodio che sembrava minore, e come sempre quegli episodi piccoli oppure abbastanza trascurabili poi diventano magari l'epicentro di eventi molto più grandi. Un gruppo di ragazzini appartenenti a una famiglia numerosa e nota della città aveva fatto delle scritte sulla scuola contro Bashar Assad, ragazzini dai 9 ai 15 anni che furono arrestati, e poi ci fu una manifestazione, una grossa manifestazione per cercare la loro liberazione. I manifestanti furono attaccati, ci furono 4 morti, e da lì il 18 marzo cominciò tutto, una rivolta che a Daraa è stata particolarmente sanguinosa, la città fu messa sotto stato d'assedio, ci furono interventi delle truppe speciali e in circa 10 mesi appunto di questa rivolta sono morte, a quanto pare, secondo le fonti dell'opposizione, almeno 500 persone. Insomma, è stata una rivolta molto dura. Adesso le manifestazioni ad Arà non ci sono più, ma ci sono altri episodi, perché sono scesi un po' in campo i gruppi armati che affrontano le forze di sicurezza con attacchi improvvisi e sabotaggi. La tensione quindi si è spostato dalla protesta, come l'abbiamo vista negli altri paesi arabi, alla guerriglia vera e propria. Sì, direi una guerriglia sui generis, con gruppi armati, alcuni dicono salafiti, estremisti islamici, altri dicono disertori dell'esercito, e certamente il regime punta molto sul fatto che ci siano questi episodi per continuare la propria repressione, cioè in qualche modo la violenza aiuta la violenza del regime. Ultima questione, ieri abbiamo visto Assad in televisione, insomma è apparso continuando a negare che si sia mai sparato, ci sia mai stato ordine di sparare sui manifestanti, e ci è sembrato Alberto, senza la minima apertura comunque. Ma è sembrato assai poco convincente non soltanto a noi che lo guardiamo insomma come osservatori, ma anche un po' agli siriani, anche a quella opposizione più moderata, quella che ha dialogato, ha tentato di dialogare con il regime, che non si fa convincere da questo discorso di Assad. Mentre lui faceva questi discorsi ci continuavano episodi anche piuttosto feroci sul campo. C'è da dire però una cosa, che per quanto io ho potuto vedere qui, il regime ha ancora la situazione in mano, cioè la situazione non è fuori controllo. Spesso si ha l'impressione, stando fuori, che in questo paese Assad non controlli più nulla, il governo non controlli più nulla. In realtà non è esattamente così. L'impressione è che se non ci sarà un intervento esterno, la questione siriana possa durare ancora e sanguinosamente a lungo. Grazie dunque ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, del quale ve lo ripeto non per far pubblicità, ma semplicemente perché l'abbiamo letto e ci è parso molto bello. Trovate il reportage da Darà oggi proprio sul Sole 24 Ore. Grazie Alberto e buona giornata. Grazie a voi. E noi cambiamo decisamente argomento, veniamo all'Italia e veniamo all'incontro di ieri su Fincantieri. Che cosa è successo? C'è stato un incontro di tutti i sindacati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il ministro Corrado Passera ha ribadito l'importanza strategica dell'industria cantieristica per l'economia nazionale e un mantenimento dei siti. Io saluto Tiziano Roncone della FIM CISL di Fincantieri. Naturalmente, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei. Allora, a me sembra che si sia realizzata sulla vicenda Fincantieri una nuova spaccatura sindacale alla fine, con la FIOM che sembra contraria agli accordi che avete sottoscritto con l'esecutivo e c'è questa divisione. Ci spiega su che basi c'è questa divisione? Ma guardi, anche noi abbiamo difficoltà a capire qual è la vera motivazione della spaccatura che si ha. Certo, tutti vorrebbero... Cioè, cosa prevede l'accordo firmato al momento? Così ci capiamo subito. Ma l'accordo che abbiamo firmato prevede il mantenimento degli 8 siti produttivi ed era un accordo con l'azienda su un piano industriale che ci ha permesso di firmare la cassa integrazione e in parte anche gli esuberi per alcuni cantieri, però manteneva e mantiene gli 8 siti che sono ovviamente tutti i cantieri oggi esistenti. Il governo ha, noi non avevamo dubbi perché difficilmente un'azienda che dipende, che il suo azionista è lo Stato, possa fare cose diverse da quello che è. Però insomma, con questi cambi di governi era anche difficile insomma prevedere che il governo ieri ci ha riconfermato la sua volontà di difendere questo settore e ha riconfermato il buon accordo, quindi il fatto che gli otto siti vanno mantenuti. Ha detto che bisogna accelerare in modo forte le infrastrutture, quindi essenzialmente parlava del cosiddetto ribaltamento a mare di Sesto Ponente, quindi che va messa questa opera in cantiere da subito, e ha anche dichiarato che vi è un problema in quell'accordo, che è quello dell'efficientamento, che insomma è che manca, che dovrebbe essere fatto, perché bisogna essere sul mercato, perché questo è un settore che non solo va difeso in termini idealistici, ma anche in termini produttivi. Questo è quello che ha detto il governo, ci ha invitato e ha invitato le organizzazioni sindacali ad essere unitarie, perché solo unitariamente si riesce a difendere in settori così difficili, critici per il paese, però questo non è bastato, e quindi la FIOM ha ritenuto di dover anche oggi proclamare autore di sciopero, tra l'altro sciopero che pesano fortemente nelle tasche dei lavoratori. Grazie a Tiziano Roncone della FIM CISL per essere stato con noi per parlarci della vicenda Fincantieri e di questa nuova rottura tra i sindacati. All'uscita del doppio disco di platino, Io e Te, con questo chiudiamo ancora in classifica. Da oggi sarà in rotazione radiofonica I Wanna Die For You, il nuovo brano scelto da Gianna Nannini per lanciare un messaggio all'inizio dell'anno, questo 2012 in cui per molti si dice avverrà la fine del mondo. La cantautrice esalta l'ultimo atto d'amore, Voglio morire per te. Il videoclip è interamente girato a Berlino, città molto amata dalla Nannini. E con questo chiudiamo, un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.